Abbiamo appreso fino a questo momento il cerimoniale del rito di adorazione. Ora, perché il rito di adorazione sia valido, è necessario che siano rispettate alcune condizioni, che sono la purezza rituale del corpo, taharatul badan, la pulizia del luogo, il tempo in cui l'adorazione deve essere eseguita e la direzione della Mecca. Cominciamo a parlare della purezza rituale del corpo. La purezza rituale è la prima delle condizioni di validità ed è lo stato di idoneità corporea all'adempimento del dovere di adorazione. Essa si ottiene con l'esecuzione del lavaggio di alcune parti del corpo o di tutto il corpo per liberarlo dalla condizione di impurità, hadath, prodotta da alcuni eventi fisiologici. La purezza rituale del corpo, purezza che rende accetto ad Allah, rifulgo lo splendore della sua luce, il rito di adorazione, è in atto quando il corpo è stato liberato dal hadas, cioè dalla condizione di impurità, condizione che rende invalido il rito. Ora, quali sono le condizioni di impurità? C'è una impurità minore e una impurità maggiore. L'impurità minore è prodotta dalla fuoriuscita attraverso gli orifizi di urina, di escrementi, di venti anali, poi dal sonno. Il hadas maggiore, cioè l'impurità maggiore, è prodotta da emissione di sperma in stato di veglia o di sonno, orgasmo, mestruazioni e parto. Per liberare il corpo dal hadas minore, cioè dall'impurità minore, è necessario eseguire un rituale di purificazione che consiste nel lavaggio di alcune parti del corpo. Il nome in arabo di questo rituale si chiama al-wudu. Esso consiste in una serie di abluzioni eseguite secondo l'insegnamento coranico e la pratica del profeta. Per togliere il hadas maggiore, cioè l'impurità maggiore, deve essere eseguito un rituale di purificazione più complesso, il cui nome in arabo è al-ghusl. Vediamo l'abluzione minore, come si esegue l'abluzione minore. Dopo aver recitato mentalmente o a bassa voce la basmala, cioè di aver detto Bismillahirrahmanirrahim, il fedele formula mentalmente o a bassa voce l'intenzione con le parole Anwil wudu lillahi ta'ala, cioè intendo eseguire l'abluzione minore per Allah l'Altissimo, e poi esegue le seguenti operazioni di lavatura. Si lava per 3 volte le mani, per 3 volte si sciacqua la bocca, per 3 volte il naso, per 3 volte la faccia, per 3 volte le braccia fino al gomito, prima la destra e poi la sinistra, una volta la testa e le orecchie passando la mano dalla fronte alla nuca, e per 3 volte i piedi, iniziando dal piede destro e terminando con il piede sinistro. Alla fine formula mentalmente la professione di fede: Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il musulmano ha il dovere di essere sempre in condizioni di purezza rituale, per cui, dato che il sonno è uno dei fattori che fa perdere la purezza rituale, non può eseguire il rito d'adorazione dell'alba se non dopo essersi messo in condizione di purezza rituale, o con l'abluzione minore o con l'abluzione maggiore, se sussistono le condizioni che rendono necessaria quest'ultima. La condizione di purezza rituale, tahara, ottenuta con l'abluzione minore necessaria, qualora non sia necessaria quella maggiore per l'esecuzione del rito di adorazione dell'alba, permane fino a quando non si verifichi uno dei fatti seguenti: uscita dal corpo di urina, escrementi, venti anali, oppure sonno profondo, perdita dello stato di coscienza per qualsiasi ragione, eiaculazione, orgasmo, coito. Quando uno degli eventi sopra indicati si verifica, la perdita della purezza rituale determina la necessità di ritornare in essa con l'abluzione minore o maggiore prima di eseguire il rito di adorazione che viene dopo l'evento interruttivo della purezza rituale. Parliamo adesso dell'abluzione maggiore. Con l'abluzione maggiore, il ghusl, si intende il lavaggio eseguito con acqua pura di tutto il corpo, facendo passare dell'acqua su tutta la superficie, compresi i capelli. E si esegue dicendo Bismillahirrahmanirrahim, poi Anwil ghusl lillahi ta'ala, dopodiché si lavano le mani. Dopo essersi lavati le mani si esegue la lavatura delle parti genitali, dopo essersi mondati dell'impurità delle parti genitali si lavano ancora le mani e si prosegue con il rituale indicato per l'abluzione minore fino alla lavatura delle orecchie. A questo punto si fa una doccia, cioè si fa passare l'acqua su tutto il corpo, si friziona il capo e dopo aver eseguito il lavaggio di tutto il corpo ci si sposta e si termina con la lavatura dei piedi, prima il piede destro e poi il piede sinistro. Alla fine del rusl si esegue la professione di fede dicendo Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Nel caso di impossibilità delle due forme di purificazione, cioè del wudu e del ghusl, c'è la possibilità di eseguire la purificazione attraverso la cosiddetta lustrazione pulverale, in arabo at-tayammum. Il tayammum viene eseguito dicendo la basmala, Bismillahirrahmanirrahim, dicendo poi l'intenzione, Anwi tayammum lillahi ta'ala, poi si passano le palmi delle due mani su un solido, una pietra o una terra, si passano per tre volte le due mani sulla faccia, dopodiché si passano con la mano sinistra, passa sull'avambraccio destro e con la mano destra sull'avambraccio sinistro, dopodiché si formula la professione di fede Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Questo rituale può essere fatto quando non c'è la possibilità di trovare dell'acqua oppure quando uno è malato, che è difficile poter fare l'abluzione maggiore o minore. Le altre condizioni di validità dell'adorazione sono la copertura delle parti intime, cioè l'uomo deve essere coperto al minimo da sopra l'ombelico fino a sotto le ginocchia. La donna invece deve essere tutta coperta all'infuori dell'ovale del viso e delle due mani. Inoltre deve essere eseguito il rito dell'adorazione nei tempi che sono stati indicati per esso, cioè l'adorazione deve essere eseguita all'alba, e il tempo del rito di adorazione dell'alba va dall'alba, cioè il primo chiarore all'orizzonte orientale, fino alla levata del sole, però bisogna sempre eseguirlo nei primi momenti del periodo. Così la preghiera, il rito di adorazione del mezzogiorno va dal mezzogiorno fino all'inizio del pomeriggio. L'inizio del pomeriggio è indicato dal momento in cui l'ombra di un corpo è lunga il doppio del corpo che la produce e dura fino al tramonto. Il tempo del tramonto va dal calar del sole dietro l'orizzonte fino al calar delle tenebre, cioè quando tutta la luce del sole è uscita dalla volta celeste del luogo dove l'esecuzione avviene. il tempo del rito di adorazione della notte, cioè del calar delle tenebre, va dal calar delle tenebre, quando tutta la luce solare è uscita dalla volta del luogo dove deve essere eseguito il rito dell'adorazione, fino alla metà della notte, che si considera essere la metà del tempo che intercorre tra il calar delle tenebre e lo spuntare dell'alba. Inoltre è essenziale l'orientamento, cioè in direzione della Mecca, in Italia in direzione sud-sud-est. Nel caso che per qualsiasi motivo non fosse possibile identificare la direzione della Mecca, il Musalli deve esprimere l'intenzione di voler eseguire il rito d'adorazione nella direzione della Mecca, cioè nella Qibla, e può eseguire quindi il rito d'adorazione in qualsiasi direzione. Inoltre deve esserci la nettezza del vestito e del luogo di adorazione, cioè taharatu thawabi wa maudia issala. Il vestito deve essere mondo dalla presenza di sostanze che determinano la condizione di impurità come sangue, pus, feci, urina. Così anche il luogo dove si deve eseguire il rito dell'adorazione deve essere pulito. È ripugnante eseguire il rito di adorazione in un bagno, in un macello, in direzione di una tomba, in un luogo contaminato da sostanze alcoliche o da idoli o in un immondezzaio. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.